Alcuni giorni dopo il funerale, all'ora del cinghiale, Luna di Primavera stava seduta sullo sgabello di porcellana accanto allo stagno dei loti, come aveva fatto ogni notte da quando 20 d'agosto e Talento Nobile avevano portato a casa il corpo del patriarca. Perché, insonne, si sentisse spinta a venire qui come a cercare qualcosa, non sapeva. Quel che aveva perso era sepolto con talento coraggioso, non l'avrebbe più ritrovato, né quella notte, né mai. Nessun altro l'avrebbe mai più conosciuta così bene, perché lui era stato sempre presente nella sua vita, aveva capito i suoi pensieri, i suoi silenzi, aveva condiviso tutti i suoi segreti tranne uno. Ora nessuno poteva più rievocare quegli anni. Udì dei passi e si voltò, vedendo una figura eretta all'ombra del muro di marmo. Chi è? Sono 20 d'agosto, zia. Il servo mi ha detto che eri qua. Si diresse verso di lei e si inchinò. Dobbiamo parlare. Oh sì, certo, annuì domandandosi di cosa si trattasse, desiderando di non dover venire a sapere. Possiamo andare nella sala degli antenati? Chiese lui. Sì, sta diventando freddo. È lì che ho chiesto di far venire Talento Nobile. Lei si fermò e rimase immobile, studiando il volto di lui alla luce della luna, e improvvisamente sentì il gracidare delle rane più forte, insistente, stranamente umano. Quando arrivarono nella sala, il giovane zio li aspettava. Così nemmeno lui può dormire, pensò Luna di Primavera. Si inchinarono l'un l'altro e sedettero al tavolino da tè. 20 d'agosto offrì una sigaretta a Talento Nobile, ne accese una per sé e, frugandosi di nuovo in tasca, tirò fuori una tavoletta di cioccolata. Zia? Lei rise, ma senza gioia, fino alle lacrime. Asciugandosi gli occhi, rispose: No. Grazie. E poi è stranamente confortante che, nonostante tutto quel che è successo, tu e mia madre siate sempre gli stessi. Cosa vuoi dire? Beh, persino da ragazzo. Non andavi da nessuna parte senza prima esserti nascosto pezzetti di cibo nelle tasche. Il mattino mia madre indulge sempre alla sua toilette, dipingendosi le guance, laccandosi i capelli, decidendo quale abito color prugna indossare. Ignora qualsiasi sconvolgimento. Talvolta penso che se... Il giovane zio tamburellava nervosamente le dita sulla coscia. Si schiarì la gola. Lei si interruppe. Perché continuava a blaterare? Talento Nobile parlò. Per favore, spiegaci perché sei qui 20 d'agosto. Questi annuì. Poi le sorrise gentilmente come per dire che gradiva le sue chiacchiere. Spegnendo la sigaretta, cominciò. A Shanghai circolano delle voci. Evidentemente uno dei comunisti ha tradito e ha dato una lista di nomi, parecchi nomi, compresi quelli di Giada Lucente e di Spirito Risoluto. Luna di Primavera sentì un nodo alla gola. Questa volta, proseguì 20 d'agosto, bustarelle e conoscenze non serviranno. Ho già fatto un sondaggio, vogliono dare un esempio. 20 d'agosto e Talento Nobile si accesero una seconda sigaretta ciascuno. Luna di Primavera rimase a osservarli un po'. Poi lentamente si alzò e si diresse verso i paraventi che dividevano la sala. Con precauzione scostò i pannelli centrali così che un raggio di luce della lampada sul tavolino da tè ricadde sull'altare. Rimossa la barriera dei paraventi, fu quasi sopraffatta dall'incenso. Non riusciva a distinguere i nomi dipinti sulle tavolette degli antenati e delle antenate allineate lungo la parete dell'altare. Mentre se ne stava lì, le ombre si affollarono di donne. I loro sussurri fruscianti come foglie morte. Sull'altare, accanto a una cesta di frutta, una pera. In lontananza udii la voce della matriarca. È un segno innegabile mandato dai nostri saggi antenati. Il messaggio era chiaro: partire, partire, dovevano partire. Luna di Primavera rimise a posto i paraventi e tornò a sedere. Quanto tempo pensi che abbiamo? Domandò. 20 d'agosto si strinse nelle spalle, al massimo una settimana, forse soltanto 5 giorni. Dovranno bastarcene 3, fece lei, non ci sono alternative. Ora Talento Nobile era in piedi, camminando avanti e indietro, le morbide pantofole che appena frusciavano sul pavimento di legno stagionato. Poi, come se fosse giunto alla fine di un viaggio, si fermò. Dove possiamo andare? A Hong Kong, rispose 20 d'agosto. Il soldato pensò un attimo, poi annuì, deciso. Sì, e di nuovo con voce più aspra. Sì. Figlia mia, cosa hai fatto? Pensò a Luna di Primavera. Non hai certo potuto volere una cosa simile. Non hai potuto. Scosse la testa. Il pensiero era terribile. Era il destino. Nessuna madre avrebbe potuto in alcun modo modificarlo. Forse i debiti della casa dei Chang erano tanto numerosi da dover essere saldati così. Guardando gli uomini, non pose domande, grata che a talento coraggioso fosse stata risparmiata questa resa dei conti. Talento nobile si schiarì di nuovo la voce. C'è molto da fare, fu tutto quel che disse. Nel giro di un'ora la casa era in fermento. Fino al giorno dopo le donne impacchettarono e sigillarono i tesori del clan nelle bare che erano state preparate per le vedove. I servi, 20 d'agosto, talento nobile e promessa costante, scavarono attorno allo stagno dei loti. Era un lavoro difficile perché le radici dei cipressi scendevano ancora profondamente nella terra della casa dei Chang, ma prima del tramonto ebbero finito e i tesori erano sottoterra. Quella notte, quando il silenzio fu calato sui cortili, Luna di Primavera andò a far visita a Virtù Splendente. Talento Nobile le aveva spiegato che dovevano partire, ma senza riuscire a farle rescindere il suo voto. Soltanto una persona poteva farle cambiare idea e quella persona era morta. Ti prego, entra. Buonasera, zia. Buonasera, nipote. In silenzio si servirono l'un l'altro il tè e lo sorseggiarono con gli occhi abbassati. Sei sicura, zia? Sei veramente sicura? Continuava a ripetersi Luna di Primavera. Ma naturalmente non pose il quesito. Forse non le sarebbe accaduto niente. Forse 20 d'agosto si sbagliava. Forse. Virtù Splendente fu la prima a parlare. Nipote mia, vorrei che tu e 20 d'agosto faceste una cosa per me. Includo l'orfano, poiché egli è più giovane, di talento nobile e sopravvivrà a tutti noi, non occorre che gli altri sappiano. Lei annuì. Goffamente, con le sue scarpe dal tacco alto, la vedova lasciò la stanza. Quando tornò, portava con sé la scatola degli scacchi. Ti prego, seppelliscila in un posto sicuro. Luna di Primavera si alzò e si protese verso la scatola e per un attimo si trovarono l'una di fronte all'altra. Poi i loro occhi si incontrarono e Virtù Splendente disse: «È ora che tu vada, nipote». Lei annuì, prese la scatola e si affrettò a uscire dalla stanza. Più tardi, in giardino, 20 d'agosto chiese: «Dove devo scavare?» «Dove vuoi, non importa. Sotto una pietra. La zona intorno allo stagno è già stata tutta usata. Dove vuoi?» Lui individuò una pietra sconnessa, riuscì a sollevarla dal sentiero e cominciò a scavare. Lei sedette sul panchetto, con l'occhio fisso sui rami di cipresso, sulla scatola. Alla luce della luna, i fili di rame scintillavano contro il blu come brace. Una volta sepolta, sarebbe mai più tornata la luce. E anche così, il suo splendore si sarebbe per sempre offuscato. Forse doveva portarla con sé, insieme con l'altra scatola che aveva riposto quel giorno. Anche quella era blu. La scena di montagne e brume ricamata sopra, incompiuta. Il dono di Virtù Splendente. Vi aveva messo dentro i suoi oggetti più preziosi, l'anello di felice promessa, un antico soldato d'avorio di un gioco di scacchi, una spilla d'oro ornata di penne di Martin Pescatore, una forcina d'oro, un libro di poesie di Li Po, lettere, una fotografia o due, ma non poteva portarle tutte e due, e quella che teneva ora in mano aveva promesso di seppellirla. Zia, 20 d'agosto le era vicino, spazzandosi via lo sporco dalle mani. Lei lo guardò, a malincuore gli consegnò la scatola degli scacchi e rimase a guardare mentre lui la calava nella terra. Con cura ammucchiò del terriccio sopra la piccola buca, poi lo pigiò bene col retro della pala prima di rimettervi sopra la pietra. Lisciò bene la superficie togliendo le tracce di terra, poi rimise il muschio nelle fessure. Ora tutto sembra come prima, disse. Nessuno sospetterà nulla. Ricorda, come ricorderò io, che è la settima pietra della settima fila. Ricorda il giorno della riunione del Bovaro con la fanciulla tessitrice. Per un attimo lei ebbe paura di piangere come un bambino abbandonato. Zia, stai bene? 20 d'agosto. Talvolta penso che il mondo sia impazzito, ma poi rifletto e so che non può essere così. È solo che siamo destinati a pagare i vecchi debiti. La sua voce si spezzò. Lui si inginocchiò ai suoi piedi e le prese le mani. Zia, quello che è successo non dipende da te. E nemmeno da Giada Lucente. Poteva facilmente accadere il contrario ed essere talento nobile a metterci in questa situazione. Lei scosse il capo. Tu non sai. Ho fatto cose che non puoi nemmeno immaginare. Davvero? Mormorò 20 d'agosto, come se anche lui guardasse al passato, ma poi si strinse nelle spalle e disse: La vita non è forse un intreccio di sciocchi desideri e scelte imperfette? E poi, con intensità, sicuramente se ti ritrovassi nelle stesse circostanze rifaresti le stesse cose. Lei aveva smesso di ascoltare e fissava le loro mani unite. Mancava soltanto il filo per fare ripiglino. Lei aveva fatto quel gioco da bambina, con Fiore di Prugno, poi con Giada Lucente, con Promessa Costante e ora con Nuovo Destino. Sorrise al ricordo. Ne ero certo, esclamò 20 d'agosto. Rifaresti quel che hai fatto? Credo di sì. Nessun rimpianto? Nessun rimpianto. Il pomeriggio successivo, l'una di primavera, si diresse da sola verso l'altura dove erano sepolti gli antenati. I pini che incorniciavano la tomba del venerabile erano alti e quando le loro ombre si allungarono su di lei, si fermò un attimo. Quanti anni erano trascorsi? 36? No, 35. Quanti ne aveva, talento coraggioso, al suo ritorno dall'estero? Sorrise al pensiero di lui, poi si domandò cosa sarebbe stata la sua vita se lui non le avesse mai insegnato a leggere. No, non poteva essere diversamente, ne era certa. Posò la cesta per terra e cominciò a strappare le erbacce dalle tombe. Il vento soffiava da sud, inaspettatamente caldo, e faceva ondeggiare i salici. In alto, il richiamo melanconico delle anatre selvatiche che volavano a nord. Lei lavorava lentamente, assaporando il tempo trascorso con ciascun congiunto. Per la maggior parte non li aveva mai incontrati, ma conosceva le loro storie e mentre strappava l'erba dai tumuli chiamò ciascuno per il suo giusto nome. Era ancora al lavoro quando il custode la chiamò e ora, giovane padrona. Lei annuì. Puoi andare, verrò dopo. Lei rimase a osservarlo mentre scendeva la collina verso la città, ansimando e oscillando un po' sotto i pesi che pendevano dalle estremità del suo giogo di bambù. La sua anziana madre, rannicchiata nella cesta davanti, gridò ai nipoti nell'altra: State fermi, miei preziosi anatroccoli, altrimenti cadiamo! Giunta davanti alla tomba più recente, vi dispose sopra le ciotole di cibo che aveva portato e i bastoncini d'incenso già accesi. All'altare dei cortili fece tre volte cutù, poi parlò. La nonna ha detto che secondo le predizioni io vedrò cinque generazioni raccolte sotto lo stesso tetto. Credo che sia il mio destino. Ho promesso che radunerò il nostro clan per essere con te quando le colline saranno verdi e il vento dolce. Manterrò la promessa. Non sarà né quest'anno né quello dopo, e forse nemmeno fra 10 o 20 anni. L'orizzonte è nascosto da erba alta che sospira e si china al vento più forte, e le notti sono buie. Ma il nostro clan è sopravvissuto ad altre prove, quando il vino diventava aceto e l'incenso fumo. C'è una stagione per il sole e una per l'ombra, una stagione per il canto, una per il silenzio e in tutte le stagioni separazione e riunione. Arrendendoci, siamo come l'acqua, per sua natura, placida, che si adatta al cavo della mano più piccola. Col tempo, essa plasma persino le montagne, secondo la sua volontà. Così manteniamo fede al dovere e all'onore, preserviamo il clan e la civiltà. Siamo cinesi. Epilogo. Nell'ottava luna dell'anno del cane 1934, i comunisti rimasero isolati sulle montagne del Jiangxi, completamente circondati. Che speranze di sopravvivenza avevano? Nessuna, pensò il nemico. Non è così, gridò il grande timoniere. Non è la fine, ma un nuovo inizio. I soldati dell'Arma Rossa si radunarono nelle piazze dei villaggi. Un quadro si affrettava da un gruppo all'altro, incoraggiandoli. Torneremo, compagni, sopravvivremo, vinceremo. La voce della donna era potente come una tromba d'aria. Era il crepuscolo quando l'uomo che lei amava, il generale contadino, diede il segnale della partenza. Marciarono di giorno e di notte, ignorando le bombe che esplodevano in aria e l'odore delle città incendiate. Il quadro curava i feriti. Un freddo mattino in cui le foglie si staccavano dagli alberi, un soldato di 13 anni fu affidato alle sue cure. L'aveva già visto alle riunioni, tutto impettito nella sua uniforme troppo larga e negli stivali di cuoio confiscati. In un boschetto di pini alti si inginocchiò accanto al ragazzo, chiamandolo dolcemente: «Compagno, compagno!» Lui aprì gli occhi. Tenendogli la mano, gli spiegò cosa doveva fare. «Te lo chiedo perché so che puoi farlo e vuoi farlo. Mi sbaglio, forse?» Le lacrime gli scivolarono sulle guance mentre scuoteva la testa. «No, non ti sbagli.» Quattro uomini lo sollevarono. Il ragazzo urlò per il dolore. «Ti prego, aiutami!» Il quadro lo imbavagliò con una grossa corda e quando lui fece cenno di procedere, gli uomini lo calarono in una cesta e lo sollevarono in alto fra gli alberi. Mostrò la granata che aveva in mano. Quando il quadro a sua volta agitò il braccio, egli fece il saluto militare, portando la mano alla stella rossa sul berretto. Lei si infilò gli stivali di cuoio del ragazzo e riprese la marcia. Quando la colonna si avvicinò alla vecchia montagna, la fila si arrestò. Il pendio era così ripido che si potevano vedere solo le suole di corda del soldato davanti. Cadde la notte. La montagna divenne ghiaccio. Il quadro urlò all'uomo che, aggrappato alla roccia dietro di lei, piangeva di paura. «Guarda il cielo e conta le stelle, compagno! Guarda il cielo!» Per la prima luna dell'anno del cinghiale, 1935, per la seconda e la terza e la quarta, l'Armata Rossa marciò e combatté, incapace di uscire da quei ciao. A ogni passo, a ogni angolo, il nemico era in agguato. I comunisti si divisero in colonne e fecero diversioni, girando intorno finché il gruppo principale riuscì a passare, attraversando fiumi soltanto per poi fare dietro fronte. Infine giunsero alle rive del fiume dalle sabbie d'oro. Il torrente turbinava attraverso una gola alta oltre un chilometro. Non c'era un ponte e si vedevano solo 6 barche. Per 9 giorni e 9 notti le barche attraversarono il fiume finché tutti furono approdati all'altra sponda. Allora proseguirono verso nord, attraverso lo Yunnan e le terre dei Lolo e dei Miaozu, fino ai confini della provincia di Sichuan. Là, il fiume Tatung in piena bloccò il cammino. Là, già 2 volte in passato, 2 grandi eserciti erano periti. A nord del fiume aspettavano le legioni del Kuomintang. Le due armate, quella rossa e quella bianca, corsero lungo le sponde opposte del Tatung verso il ponte di Luting, come morti flagellati all'inferno. I comunisti marciarono per 3 giorni e 3 notti, concedendosi solo soste di 10 minuti. Raggiunsero il ponte per primi, ma trovarono soltanto 13 catene di ferro sospese sopra l'abisso, oscillanti al vento. La piccola guarnigione del Kuomintang aveva strappato via quasi tutte le assi di legno del ponte di circa 200 metri che collegava le due sponde rocciose. Scesa la notte, il generale contadino e 21 volontari cominciarono ad avanzare, un centimetro dopo l'altro, una mano dopo l'altra, penzolando dalle catene. Esplosero degli spari, un uomo cadde, poi un altro. Infine, alcuni raggiunsero le assi rimaste. Divamparono le fiamme. Attraversandole, il generale contadino sconfisse il nemico. Il Luting fu conquistato. Era la quinta luna, quando l'Armata Rossa raggiunse i picchi nevosi del Tibet. 7 catene montuose, eternamente avviluppate dalla neve, scintillanti come sudari bianchi appesi dagli dèi ad asciugare. I soldati dell'Armata Rossa, con addosso uniformi di cotone e sandali di paglia, andarono avanti, pensando che non sarebbero mai sopravvissuti. Il nemico si ritirò. Alla sesta luna avevano raggiunto il Sichuan nord-occidentale, e lì si riposarono un mese raccogliendo le forze. Oltre 100.000 uomini avevano cominciato la marcia. Ora Anche con le nuove reclute ne rimanevano solo 30.000. Quando ripartirono, il quadro, la donna, scrisse un carattere sul dorso di ciascun soldato per insegnarglielo, e mentre marciavano, ogni uomo ripeteva la sua parola a quello direttamente dietro di lui. Ogni giorno i soldati si scambiavano i posti imparando nuove parole. Entrando nel territorio dei Manzù, i marciatori si trovarono di fronte a un nuovo nemico. Gli uomini della tribù odiavano i cinesi bianchi e rossi, e la loro regina aveva ordinato che tutti gli intrusi venissero bolliti vivi e che i campi e le abitazioni venissero spogliati. Coloro che sfuggirono alle frecce avvelenate degli spettri micidiali si indebolirono per la fame. Davanti a loro le distese erbose del Chincai. Non un albero, non un cespuglio, non una roccia. Soltanto erbe e paludi che emanavano un fetore peggiore dell'urina di cavallo. I soldati avanzavano cauti, tenendosi stretti a corde legate intorno alla vita degli esploratori. La notte, alcuni si stendevano sull'erba folta e gli altri dormivano in piedi, dorso contro dorso. Quando le ultime erbe e gli ultimi funghi finirono, bollirono e mangiarono le loro cinture. Il quadro divise con gli altri i suoi stivali, quelli che aveva preso al ragazzo. Dopo 7 giorni trascorsi in quella regione, l'armata rossa raggiunse il rifugio dello Yunnan. Avevano marciato 368 giorni. Avevano attraversato 18 catene montuose, 24 fiumi, 12 province, 25.000 li, quasi 10.000 chilometri. Provenivano da questi quadri soldati, contadini e ragazzi della lunga marcia, i compagni che combatterono i Nani Marrone, vinsero la guerra civile, respinsero gli imperialisti, cacciarono l'orso polare e, sotto la guida del grande timoniere, imposero l'ordine a un quarto dell'umanità. Poi, di nuovo, venne un tempo di Luan, in cui i compagni furono divisi e vecchi amici divennero nemici gli uni degli altri e i vecchi nemici amici. Il seme gettato in una stagione mette radice, ma l'albero che fiorisce in una diversa muore. È nella natura delle cose. Storia di clan. Dopo 25 anni, Promessa Costante tornava a casa. Si sarebbe. Promessa Costante, il cognato di Luna di Primavera, il figlio adottivo che sua suocera aveva preso come uomo di casa alla morte del figlio. Si sarebbe trattato tutt'al più di una questione di giorni. Nelle mani stringeva l'incartamento che gli aveva consentito, come consulente speciale della Casa Bianca, sulla questione dell'apertura verso la Cina di essere fra i primi a tornare. Soltanto 8 mesi erano passati dal viaggio segreto di Henry Kissinger a Pechino. Nel momento stesso in cui era stato reso pubblico, aveva cominciato a far piani. Cercando il favore di superiori e amici che aveva sempre evitato di coinvolgere in una questione così personale, non osando mai sperare nel successo. Era Luna di Primavera che voleva vedere, era lei che sognava quando sognava la casa. Fratellino, sentiva la sua voce che lo stuzzicava. Fratellino, piccolo uomo, prova a prendermi se ci riesci. A Pechino e a Shuchao si rincorrevano, finché a Shanghai era diventato improvvisamente uno studente troppo vecchio per giocare a nascondino. Diede un'altra occhiata all'orologio e alla parete verde in cui si apriva una porta, sormontata dal ritratto di Mao. Pazienza, si disse per la centesima volta, ma era difficile. Aspettava da oltre 2 ore, da prima delle 9, quando le porte dell'ufficio del servizio turistico cinese di Hong Kong si erano aperte e lui e gli altri arrivati si erano pigiati dentro. Svedesi e tedeschi, un inglese o due, diversi australiani erano venuti per la fiera di Canton. Per tutta la mattina si erano agitati, urlando intorno a lui, chiedendo tagliandi turistici e sistemazioni in albergo. Per tutto il mattino gli impiegati in cotone blu si erano trascinati cupi fra il banco e la macchina francatrice, ignorando l'attesa angosciosa degli uomini d'affari che alternativamente agitavano i loro visti e le loro teste. Più energiche erano le proteste, più i cinesi si muovevano con lentezza. Uno spettacolo comico, pensò Promessa Costante, se anche lui non fosse stato in attesa. Non era il ritardo che lo turbava. I suoi documenti erano in ordine, ne era sicuro, e troppo pochi americani, anzi cinesi americani, erano passati attraverso questo ufficio perché le procedure si fossero sveltite. Ma dopo 25 anni si era aspettato. Che cosa? Non poteva dirlo con certezza. Un sorriso di benvenuto, forse, perlomeno lo stesso trattamento accordato agli stranieri che andavano a Canton. Invece, l'impiegato dalla faccia grigiastra alla prima scrivania si era appena limitato a dare un'occhiata alle sue credenziali. Si sieda, gli aveva detto sprezzante. I viaggi speciali richiedono un'attenzione speciale. E indubbiamente impiegati speciali, pensò lui, sfogliando pigramente l'ultimo numero della rivista sulla cui copertina il presidente Nixon e il presidente Mao si stringevano la mano. Contadini dalle guance rosse e fieri operai gli sorridevano. Wan Yin sembravano dire: benvenuto, servo degli imperialisti. L'avevano accusato invece gli occhi dell'impiegato, come se fosse venuto a raccogliere i frutti della rivoluzione senza aver mosso un dito. Ma io volevo proprio tornare, avrebbe voluto spiegare. Quando sono partito ero deciso a tornare. Ma quando i comunisti avevano vinto la guerra civile non era stato più possibile, o perlomeno così aveva pensato lui, non con una moglie americana e un bambino. Gli avevano offerto il suo attuale incarico di professore di storia cinese e lui l'aveva accettato. Non aveva altra scelta, aveva pensato allora. E gli eventi non gli avevano forse dato ragione? Certo, o perlomeno così si era detto. Buttò la rivista sul tavolo, colto da una collera improvvisa. Maledizione! Non aveva alcun motivo di vergognarsi. Nonostante il suo passaporto americano era cinese e stava tornando a casa. Di nuovo guardò verso la porta nella parete verde. Non c'era nessuna targa sopra, ma lui era certo che dietro vi fosse l'uomo che aspettava. Non riuscendo più a star fermo, si alzò e si affacciò alla finestra, attento a non toccare i termos allineati come birilli sul davanzale. Il cielo sopra Hong Kong era cupo. Una luce spettrale che faceva presagire una tempesta mutava ora a seconda dell'addensarsi delle nuvole. Dalle strade in basso, nel centro della città, arrivava il frastuono del traffico che soffocava il tuono distante. I pedoni guizzavano fra i vicoli serpeggianti, evidentemente ignorando la minaccia della pioggia, come se non fosse stata che un'altra faccia imbronciata, come quelle degli stranieri che sfrecciavano accanto a loro. Man mano che il cielo si incupiva, si vide riflesso nel vetro della finestra e allungò una mano per raddrizzare gli occhiali che ora portava, la sua unica concessione agli anni che passavano. A 60 anni i suoi capelli erano ancora neri, il nuovo abito di lana beige, confezionato nel giro di una notte al Mandarin Hotel, gli andava su misura, taglia 46, sempre la stessa da quando era andato negli Stati Uniti a conoscere i genitori di sua moglie. Un certo cambiamento nei rumori alle sue spalle lo fece voltare. Finalmente la porta nella parete verde si era aperta, apparve un quadro esile di mezza età con in mano una tazza. Promessa costante, si schiarì la gola. Sì, certo, quello era il suo uomo. Il suo abito blu non era di cotone, ma di gabardine. Aspettò che il piccolo, squallido impiegato desse qualche segno, ma quello si dava da fare ostentatamente con le carte sul tavolo, mentre il quadro si avvicinava alla finestra e ai termos sul davanzale. Distrattamente, promessa costante, si domandò quale fosse il suo, e poi rimase a guardare mentre l'uomo si versava del tè da quello blu su cui erano dipinte delle rose rosse. Il quadro si stava allontanando quando lui si decise a parlare. Mi può essere d'aiuto, per favore? In cantonese non ottenne alcuna risposta. Rapidamente ripeté la domanda in mandarino e infine in inglese. Allora il quadro si voltò e annuì, leggermente incuriosito. Promessa costante gli porse la cartella contenente la corrispondenza con l'ambasciatore cinese a Ottawa e le sue credenziali. Per un attimo l'uomo apparve indeciso, poi stringendosi nelle spalle depose la tazza e prese l'incartamento. Sembrava non dovesse mai finire di esaminarlo, con un volto senza espressione. Quando arrivò al passaporto americano, lo aprì lentamente, guardando con attenzione la foto. I suoi occhi guizzarono in su e per qualche secondo rimasero fissi sul volto di Promessa Costante con un'espressione gelida. Poi l'uomo disse: «Entri!» e lo precedette nel suo ufficio. La stanza era ampia, ammobiliata con una grande scrivania, due sedie e un telefono e un ritratto del presidente Mao appeso alla parete. Nessuna carta sulla scrivania, tranne il Peking Daily. Il quadro indicò a Promessa Costante una sedia e poi si accomodò sull'altra, rileggendo ogni documento ancor più attentamente di prima, come alla ricerca di qualche divergenza nei dati. Di nuovo Promessa Costante aspettò. Infine l'uomo alzò gli occhi. Di nuovo, lentamente, un tratto dopo l'altro, scrutò Lua Chiao, indugiando sprezzante sul nuovo vestito dello straniero e sul suo anello. «Qual è lo scopo della sua visita a Shuichao, dottor Wu?» chiese aprendo il cassetto in alto della sua scrivania ed estraendo un modulo. «Vedere mia sorella. Il suo nome? Chang, luna di primavera. Quanti anni ha?» «90». Gli occhi guizzarono di nuovo verso di lui. «Quando l'ha vista l'ultima volta?» «Nel 1947, prima che partissi per l'America». «Perché?» La domanda non aveva senso e Promessa Costante esitò. Perché che cosa avrebbero ribattuto i suoi figli americani? Che avrebbe pensato il quadro se lui avesse fatto una simile osservazione? Si schiarì la gola. Andai a New York per conoscere la famiglia di mia moglie, una giornalista americana che si occupava della guerra giapponese da Chungking. L'uomo annuì, scrisse qualcosa, poi voltò pagina. È stato in contatto con sua sorella? Indirettamente. Di recente? No. L'ultima volta risale a 6 anni fa. Di nuovo gli occhi guizzarono su di lui. Allora potrebbe essere morta. No, pensò a Promessa Costante. Se fosse morta lo saprei, ma disse semplicemente: vorrei comunque tentare. Una riga dopo l'altra completarono il modulo. Man mano che i minuti passavano, la muta disapprovazione del funzionario per le sue risposte, il suo abito, la sua faccia cinese e il suo passaporto americano sembravano riempire la stanza come incenso a buon mercato, finché Promessa Costante si chiese se non fosse tornato troppo presto, temendo che tutti nella Repubblica Popolare l'avrebbero trattato così, biasimandolo per che cosa? Per essersene andato dalla Cina o per esservi tornato dopo tanti anni? Eppure, prolungare l'attesa significava rischiare di non tornare più. L'apertura verso la Cina era una questione delicata e carica di pericoli per entrambe le parti. Finalmente, il quadro mise il timbro sul modulo e si alzò. Potrà avere i biglietti e i tagliandi al banco. Fra 3 giorni sarà a Shuichao. 3 giorni? Perché non prima? Il quadro proseguì come se non l'avesse sentito. Le cose sono cambiate dal momento della liberazione. Intonò. Abbiamo liberato il paese dalle pratiche feudali. La Cina è fiorita sotto la saggia guida del presidente Mao e del Partito Comunista. Promessa Costante annuì e si voltò per andarsene. Nessuno dei due pensò a stringere la mano dell'altro. 3 giorni dopo era a bordo del treno che partiva a mezzogiorno per Shuichao, nello scompartimento speciale riservato ai visitatori stranieri. A ogni finestrino erano appese tende di pizzo con gli occhielli, rigide, di amido e di stiratura. Davanti a lui, sul tavolino pieghevole, c'era una tazza di tè fumante, un posacenere pieno di mozziconi e un pacchetto quasi vuoto di sigarette Panda. Ora, 3 giorni dopo essere rientrato nei confini della sua terra natale, scoprì di sentirsi sollevato a trovarsi fra stranieri. Perlomeno non si sentiva fissato. Ovunque, a Canton come a Shanghai, aveva attratto l'attenzione di folle silenziose, come se avesse avuto la stessa pelle pallida e gli stessi rotondi occhi azzurri dell'alto svedese nello scompartimento accanto. Aveva cercato di coinvolgere qualcuno in una conversazione, ma nessuno gli aveva risposto, o almeno sorriso. Lo respingevano, trattandolo come un alieno proveniente da qualche mondo lontano. Era per via del suo abbigliamento, naturalmente, o perlomeno così aveva cercato di rassicurarsi sulle prime, ma senza molta convinzione. Poi si era reso conto dell'amara verità. La sua gente diffidava dello straniero con la faccia cinese. Troppo curiosa per scappare, troppo impaurita per parlare. Per un po' anche lui aveva avuto paura, paura che Luna di Primavera non volesse parlargli, non lo accettasse più come parente, ma quasi subito la paura si era dissolta, lasciando soltanto l'ansia di vederla. Sorrise fra sé. L'una di primavera gli avrebbe preso la mano e alzandosi sulla punta dei piedi si sarebbe allungata per gli sciagli il ciuffo, come aveva fatto tante volte in passato. L'aveva vista per l'ultima volta nel 1947 a Chongqing, poco prima della sua partenza per l'America. L'aveva sistemata su un aereo da trasporto militare, segnato dalle battaglie, diretto verso la costa, senza sospettare che sarebbero rimasti separati tanti anni, che l'avrebbe intravista per l'ultima volta attraverso una figurina di porcellana fra cassette di legno che portavano soltanto la scritta fragile. Non è troppo tardi per cambiare idea, sorella, le aveva detto. Lei aveva scosso la testa, stringendo in grembo la scatola ricamata di Virtù Splendente. Mia zia è vecchia e ha bisogno di me. Forse mio nipote potrebbe ottenere un posto per te su un altro volo. Oh no, no, è già stato un miracolo che abbia trovato questo. Non preoccuparti per me, fratello. Si era frugata in tasca e aveva tirato fuori un uovo sodo. I suoi occhi danzavano, vedi? Mi sono preparata per il mio primo volo. E poi è stato detto che vivrò per vedere 5 generazioni. Si erano scritti regolarmente fino allo scoppio della guerra di Corea, quando la corrispondenza fra la Repubblica Popolare e gli Stati Uniti era diventato un atto imprudente, se non rischioso, per entrambi. Ormai i figli di talento coraggioso erano diventati personaggi di primo piano nella comunità scientifica cinese e forse addirittura lavoravano a progetti militari, mentre già da lucente spirito risoluto ricoprivano cariche importanti nel partito. Forse la loro posizione l'avrebbe protetta e forse la famiglia di sua moglie avrebbe salvaguardato lui da tutti i sospetti sui cinesi americani che non appoggiavano la causa dei Chiang e del Kuomintang. Forse. In ogni caso, né lui né evidentemente Luna di Primavera avevano osato correre il rischio di richiamare l'attenzione sui loro rapporti. Più tardi, quando il clima politico si era un po' placato, lui le aveva scritto una volta l'anno, mandando la lettera a un amico residente a Kowloon, che a sua volta la infilava in una nuova busta e la spediva con il timbro postale di Hong Kong, invece dell'oltraggioso Stati Uniti d'America. Ma non aveva ricevuto notizie da lei fino al 1966, quando aveva ricevuto una sua lettera spedita dal Pakistan. Non era lunga e Luna di Primavera si era evidentemente autocensurata, annunciava la nascita di altri due pronipoti e assicurava che tutta la famiglia godeva di buona salute. Ad essa era legata una foto color seppia come se risalisse a tanto tempo prima di Luna di Primavera nella veranda del cortile del Cuore Saggio. Accanto a lei c'era una bambina indicata come Gelsomino d'Inverno, la sua pro-pronipote più piccola. Mi assomiglia molto, diceva nella lettera, e lui poteva vederlo confermato dalla fotografia, benché sua sorella avesse superato la settantina e la bambina non avesse più di 10 anni. Sfidando il passare degli anni, Luna di Primavera aveva ancora la pelle liscia e il sorriso come quello che lui ricordava, come era sempre stato. Non erano più giunte altre lettere, e mentre la Cina sprofondava nella rivoluzione culturale, lui aveva smesso di scrivere. Temeva che qualsiasi sua comunicazione danneggiasse Luna di Primavera, una mandarina con relazione oltremare, ma aveva sempre pensato che se lei fosse morta, lui se lo sarebbe sentito. Persino nell'ufficio del quadro a Hong Kong non aveva dubitato che l'avrebbe trovata ad attenderlo fra gli antichi cortili della casa dei Chang. Improvvisamente, dall'altoparlante sopra la porta dello scompartimento arrivò la musica marziale che a partire da Shanghai aveva annunciato l'arrivo del treno a ogni stazione. Guardò l'orologio. Era Xu Chao. Il treno rallentò dopo aver tirato giù 2 valigie e si affrettò lungo il corridoio, come se si aspettasse che qualcuno fosse venuto ad accoglierlo. Era ridicolo. Nessuno poteva sapere del suo arrivo. Ma il senso d'attesa non spariva e quando il treno, tossicchiando, si fermò, scese rapidamente. Ignorando gli sguardi fissi e stupiti della folla sul marciapiede, puntò verso l'ingresso principale, dove berline verde pallido aspettavano di trasportare a destinazione gli stranieri forniti di tagliandi speciali. Uno degli autisti si diresse verso di lui appena lo vide, l'unico orientale fra i privilegiati. Con un cenno di saluto prese il tagliando nelle sue mani guantate di bianco e sistemò le valigie nel portabagagli. Promessa Costante stava per salire in macchina quando si sentì chiamare da una giovane donna. Dottor Wu, aspetti, dottor Wu! Nella sua voce la cadenza del più dolce dei dialetti. Sto sognando, pensò, girandosi di scatto, quasi aspettandosi di vedere Gelsomino d'inverno corregli incontro, ma era solo l'inserviente del treno, coi codini, quella che gli aveva chiesto cortesemente di sollevare i piedi mentre lei passava lo straccio sul pavimento. In mano teneva il pacchetto di sigarette Panda. Le ha dimenticate? Oh, grazie! Sorrise alla faccia giovane e seria e si frugò in tasca pensando a una mancia. No, quella era un'usanza capitalista. Grazie, ripeté. La ragazza annuì rigidamente e si allontanò. Lui rimase a guardarla mentre lei si inoltrava fiera nella stazione. Dopo 3 giorni avrebbe dovuto imparare che così come non si davano mance, non si ringraziava nessuno nella Repubblica Popolare. Mostrare gratitudine quando un compagno faceva il suo dovere era un residuo del passato feudale, un segno sconveniente di condiscendenza. Erano rimaste 3 sigarette. Se ne accese una e ne offrì un'altra all'autista. L'uomo fece per prenderla, poi evidentemente cambiò idea e scosse la testa. Promessa Costante si strinse nelle spalle e salì in macchina, chiudendo in silenzio la portiera di fronte a quella barriera di sguardi stupiti. Perché non la smetteva coi suoi tentativi? Parole insignificanti per un americano potevano risultare compromettenti nella relazione che l'autista doveva fare al suo comitato di lavoro. Perché fargli subire inutilmente un interrogatorio dal suo quadro politico? Dovuto unicamente alla leggerezza di uno straniero che cercava in quel modo di attenuare l'inaspettata solitudine che gli pesava sul cuore al suo ritorno in patria. Spazientito, spense la sigaretta fumata a metà e se ne accese un'altra, rilassandosi sul sedile e studiando dal finestrino la città che aveva lasciato nel 1927, cercando punti di riferimento che ricordava in modo vago. Coi suoi canali, la città celeste era inconfondibile, anche se qui, come a Cantone e a Shanghai, la gente era tutta vestita di blu, i nuovi edifici erano anonimi ed enormi cartelloni incombevano agli incroci principali. Cortei di persone a braccetto, in costumi variopinti, appartenenti ai vari gruppi etnici e la calligrafia del presidente, in nero contro uno sfondo rosso, che esortava i compagni a unirsi. L'acqua sembrava più limpida di prima e rifletteva la luce del sole anziché assorbirla. I nuovi viali erano bordati di alberi, nessuna traccia di mendicanti. Ma erano scomparse anche le bandiere e i mercati all'aperto. I negozi erano appena illuminati, così che non si vedeva all'interno. Di tanto in tanto, vicino al marciapiede, un venditore di gelati. La sigaretta gli bruciò le dita e si chinò per spegnerla. Tutto era così diverso. Eppure, carri sovraccarichi erano ancora spinti da uomini piegati in due. Nei vicoli svolazzava la biancheria stesa ad asciugare e i camini di latte erano inanellati da pigre volute di fumo. Dopo essere passato dal Nanlin Hotel, non aspettò nemmeno di vedere la sua stanza e tornò immediatamente alla macchina, alla pagoda di inchiostro, per favore. Questa volta il viaggio richiese pochi minuti. Promessa Costante cercava di imprimersi il percorso nella memoria, contando le strade, ripetendo fra sé i nuovi nomi. Si sentiva come si era sentito la prima volta che l'una di primavera l'aveva portato al suo Lao Kia, eccitato, felice, pieno di speranze, come un bambino. Improvvisamente, ecco, la pagoda di inchiostro e sull'altro lato della strada le robuste mura grigie che un tempo avevano racchiuso la casa dei Chang. La macchina non si era ancora fermata del tutto, che già una folla si era raccolta. Quanto resterà qua? Chiese l'autista. Può tornare all'albergo. Per oggi non avrò più bisogno di lei. L'uomo esitava. Sono in grado di tornare da solo, ho incarichi ufficiali da portare a termine. Poiché l'autista non si muoveva, Promessa Costante si girò e si allontanò. All'angolo si fermò e si voltò indietro, quasi aspettandosi che l'uomo lo seguisse, sperando che non avesse osato scendere dalla macchina. Anche la folla si fermò al suo movimento ed egli sorrise amaramente fra sé. Con tutta questa gente che lo sorvegliava, l'autista non aveva di che preoccuparsi, e infatti la macchina si stava già allontanando.